terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Andava tutto a gonfie vele. Lolita era seduta nell'atrio, sprofondata in una poltrona super imbottita color sangue e in un rotocalco sui divi del cinema. Un tizio della mia età, vestito di tweed, durante la notte il genere del luogo si era trasformato in una spuria atmosfera da magione di campagna, fissava la mia Lolita al di sopra del sigaro spento e il giornale stantio. Lolita indossava le sue professionali calzette bianche con le Oxford e quel vivace vestitino stampato con la scollatura quadra. Uno spruzzo di luce elettrica color giada illuminava la peluria dorata sulle sue tiepide membra brune. Pagai il conto e feci alzare Lolita. Continuò a leggere fino alla macchina. Sempre leggendo, fu portata in un cosiddetto caffè, qualche strada più a sud. Oh, non fece complimenti. Mise addirittura da parte la rivista per mangiare, ma una strana inerzia aveva preso il posto della sua abituale allegria. Mentre stavamo per tornare in macchina, un'espressione sofferente percorse il viso di Lolita e poi lo percorse di nuovo, più accentuata, mentre mi si sedeva accanto. Quella seconda volta l'aveva certo riprodotta a mio uso e consumo. Scioccamente le chiesi che cosa avesse. «Niente, bruto, che non sei altro!» «Cosa?» dissi. Lei tacque. Stavamo lasciando Brisland. La loquacellò. Taceva. Freddi ragni di panico mi corsero giù per la schiena. Era un'orfanella, quella bimba sola, quella bimba derelitta, e con lei un adulto nerboruto e maleodorante aveva avuto per 3 volte nella stessa mattina vigorosi rapporti sessuali. Non aveva alcuna importanza che la realizzazione del sogno di una vita avesse o meno superato ogni aspettativa. In un certo senso, essa era andata oltre il bersaglio per sprofondare in un incubo. Ero stato sconsiderato, stupido e ignobile. E lasciate che sia del tutto franco, in qualche luogo, sul fondo di quel buio tumulto, tanto mostruoso era il mio appetito per quella sciagurata ninfetta, sentivo di nuovo serpeggiare il desiderio. Mescolato ai sensi di colpa c'era il pensiero tormentoso che il suo malumore potesse impedirmi di fare ancora l'amore con lei non appena avessi trovato una bella stradina di campagna dove parcheggiare in pace. Le lanciai un'occhiata di traverso. Sorrideva, grazie a Dio. Imbecille, mi disse con un sorriso soave. Schifoso, ero una fresca margheritina e guarda cosa mi hai fatto. Dovrei chiamare la polizia e dire che mi hai violentata. Puà, vecchio sporcaccione. Stava solo scherzando? Le sue sciocche parole erano percorse da una preoccupante nota di isteria. Dopo un po', facendo con le labbra un verso sfrigolante, cominciò a lamentarsi dei suoi dolori. Disse che non poteva star seduta. Disse che le avevo lacerato qualcosa dentro. Il sudore mi scendeva giù per il collo e per poco non investimmo chissà quale animaletto che attraversava la strada con la coda eretta. E di nuovo la mia arrabbiatissima compagna mi insultò. Quando ci fermammo al distributore, scese senza una parola e restò via a lungo. Finalmente Lolita ricomparve. «Senti», disse con quella voce indifferente che mi faceva tanto male, «dammi qualche monetina, voglio chiamare la mamma all'ospedale. Com'è il numero?» «Sali», dissi io. «Non lo puoi chiamare quel numero». «Perché?» «Sali! E chiudi bene. Il vecchio benzinaio le fece un gran sorriso. Con una brusca sterzata imboccai di nuovo l'autostrada. Perché non posso chiamare la mamma se voglio? Perché tua madre è morta. Nell'allegra cittadina di Leppingwell le comprai 4 giornalini, una scatola di caramelle, un pacco di assorbenti, 2 bottigliette di Coca-Cola, un necessaire per le unghie, una sveglia da viaggio con il quadrante luminoso, un anello con un topazio vero, una racchetta da tennis, un paio di pattini a rotelle con stivaletti bianchi, un binocolo, una radiolina portatile, gomma da masticare, un impermeabile trasparente, occhiali da sole, altri vestiti, magliette, calzoncini, ogni sorta di indumenti estivi. All'albergo prendemmo camere separate, ma nel mezzo della notte lei venne singhiozzando nella mia e ci riconciliammo con grande dolcezza. Vedete, non c'era altro posto al mondo dove potesse andare. Fu allora che incominciarono i nostri viaggi in lungo e in largo per gli Stati Uniti. Arrivai presto a preferire a ogni altro genere di sistemazione turistica il funzionale motel. Angolini lindi, puliti, sicuri. Luoghi ideali per il sonno, gli alterchi, le riconciliazioni, gli insaziabili amori illeciti. Evitavamo le camere in famiglia, cugine di campagna delle camere mortuarie, antiquate, leziose, senza doccia, con arzigogolati tavolini da toilette nelle minuscole stanzette di un deprimente bianco e rosa, e poi le fotografie dei figli della proprietaria in tutti gli stadi di sviluppo. Ma qualche volta cedevo alla predilezione di Lo per gli alberghi veri. Mentre l'accarezzavo, dopo aver parcheggiato la macchina nel silenzio di una traversa illanguidita dal crepuscolo, lei sceglieva sulla guida raccomandatissimi alberghi lacustri che offrivano ogni genere di vantaggi, magnificati dalla torcia che Lovi agitava sopra, come la congeniale compagnia, gli snack tra i pasti e il barbecue all'aperto. Subito dopo il nostro arrivo in uno dei modesti motel che divennero i nostri rifugi abituali, Lolita accendeva il ventilatore elettrico e mi faceva mettere un quarto di dollaro nella radio, o leggeva tutti i dépliants e chiedeva in tono lamentoso Perché non poteva andare a cavallo sulla tale pista, a nuotare nella piscina di acqua minerale tiepida. Il più delle volte in quel modo scomposto e annoiato che le era abituale, Lo si lasciava cadere prostrata e atrocemente desiderabile su una poltrona rossa, su un astraio verde, su una chaise longue a strisce con poggiapiedi e baldacchino, su un dondolo o su un qualsiasi altro tipo di sedia da giardino sotto un ombrellone sulla veranda. E mi ci volevano ore di blandizie, minacce e promesse per convincerla a prestarmi per pochi secondi le sue membra brune nell'intimità della camera da $5 prima di fare tutto ciò che lei poteva preferire al mio misero piacere. Con quella sua mistura di ingenuità e malizia, di grazia e volgarità, di bronci livide, di rose e scoppi di risa, Lolita poteva essere quando voleva una mocciosa davvero esasperante. Non ero preparato ai suoi attacchi di noia sciamannata, ai suoi intensi, veementi brontolii, a quella sua abitudine di stravaccarsi ovunque con lo sguardo ostentatamente torpido e quella sorta di smargiasseria diffusa che lei riteneva tosta alla maniera dei teppistelli di periferia. Ecco, da un punto di vista mentale scoprì che era una bambina disgustosamente convenzionale. Lolita credeva con una sorta di celestiale fiducia in tutte le reclame e i consigli che apparivano su Movie Love o Screenland, lo Sterasil stermina i foruncoli, o niente camicia fuori dai jeans, ragazze, Jill dice che proprio non si deve. Se un cartello stradale diceva visitate il nostro negozio di regali, dovevamo visitarlo, dovevamo comprare le curiosità indiane, le bambole, la bigiotteria di rame, le caramelle a forma di cactus. Erano dedicate a lei tutte quelle reclame. La consumatrice ideale, soggetto e oggetto di ogni odioso manifesto. There come your high boy, there come your dirty high, there come your dirty dog, I gave you the big and you wanted the whole. Then come your high boy, then come your dirty high, then come your dirty dog, I gave you the thing and you wanted the hog. I took you in when you was beat, you was almost dead. I gave you some good food to eat and a place to rest your head. I let you wear my brand new suit, let you wear my new shoes. And when you asked me for my money, I never did refuse. Now look at you sitting there laughing. Then come your high boy, then come your dirty high, then come your dirty dog. I gave you the thing and you wanted the home. Then come your high boy, then come your dirty high, then come your dirty dog. I gave you the thing and you wanted the home. Then you met my baby, the apple of my heart. I could tell from the way you looked at her that trouble was bound to start. You started all your jiving and made her think the moon was green. You know, Daddy, I dig you the most. You're the most conniving fella I ever seen. You hear me? Then come your high boy, then come your dirty high, then come your dirty dog. I gave you the big and you wanted the home. Then come your high boy, then come your dirty high, then come your dirty dog. I gave you the big and you wanted the home. I thought she was my buddy. And then you try to steal my debt. But one of these days I'm gonna get you. And you heard what I said. But in the meantime, I hope you take another drink and stand up and drop dead. You hear me? Then come your high boy. Then come your dirty high. Then come your dirty dog. I gave you pig and you wanted a hog. Stop that. Then come your high boy. Then come your dirty high. Hey, lady, don't even talk to him. He ain't no good. And when a cat ain't no good, put him down. Then come your high boy. Then come your dirty high. Then come your dirty dog. I gave you the big and you wanted the hog. Then come your high boy. Then come your dirty high. Ain't no more spaghetti and meatballs. Wore my brand new suit, wore my shoes, beat me out all my money and stole my woman. Look at him. Look at him sitting there, kid. I ought to take a short stick. You got what you come here for. Now get on out of here, you hear me? Then come your dirty dog. I gave you the big and you wanted the hog. In quei giorni Né lei né io avevamo escogitato il sistema di corruzione monetaria che avrebbe avuto effetti così disastrosi sui miei nervi e la sua morale. Per garantirmi la sottomissione della mia concubina pubescente e un suo umore sopportabile, contavo su altri metodi. Tra questi, la minaccia del riformatorio è quella che ricordo col più profondo gemito di vergogna. Sin dai primissimi giorni della nostra convivenza, fui abbastanza scaltro da capire che dovevo assicurarmi la sua assoluta cooperazione nel tener segreti i nostri rapporti. Per quanto rancore potesse covare nei miei confronti, per quanti altri piaceri potesse perseguire, il riserbo per lei doveva diventare come una seconda natura. «Vieni a dare un bacio al tuo vecchio», dicevo. «Io sono soltanto il tuo vecchio, un papà di sogno che protegge la sua bambina di sogno. Ma cher Dolores, io voglio proteggerti, mia cara, dalle cose tremende che succedono alle bambine nelle legnaie, nei vicoli, e comme vous le savez trop bien, ma gentille, tra i cespugli di mirtilli quando l'estate è più azzurra. Io resterò il tuo tutore nella buona e nella cattiva sorte, e se farai la brava spero di poter presto avere la sanzione di un tribunale. Ma dimentichiamo Dolores Hates, la cosiddetta terminologia legale, una terminologia che considera razionale l'espressione oscena e lasciva promiscuità. Io non sono uno psicopatico, un criminale sessuale che si prende libertà sconvenienti con una bambina. Lo stupratore è stato Charlie Holmes. Io sono il guaritore, una distinzione da non sottovalutare. Io sono il tuo paparino, no. Io sono tuo padre e ti amo. Vediamo infine che cosa succede se tu, una minorenne, accusata di aver attentato alla virtù di un adulto in un albergo rispettabile, che cosa succede se vai alla polizia a lamentarti che ti ho rapita e violentata? Mettiamo pure che ti credano. Una minorenne che consente a una persona di più di 21 anni di conoscerla carnalmente espone la sua vittima all'accusa di stupro colposo o sodomia preterintenzionale, secondo la tecnica usata. Il massimo della pena è 10 anni. Insomma, io vado in prigione, d'accordo? Vado in prigione. Ma cosa ne è di te? Orfanella mia. Mentre io mi aggrapperò alle sbarre, tu, felice bambina, derelitta, potrai scegliere tra una quantità di dimore tutte più o meno simili, l'istituto di correzione, il riformatorio, il carcere minorile, oppure una di quelle ammirevoli comunità per fanciulle dove si lavora a maglia, si cantano inni sacri e la domenica si mangiano frittelle rancide. Tu andrai là, Lolita, la mia Lolita, questa Lolita, lascerà il suo catullo e andrà laggiù, da bambina traviata qual è? In parole povere, se ci scoprono, tu sarai analizzata e internata, micetta mia, se tu vivrai, la mia Lolita vivrà, vieni qui mio fiore bruno, con altre 39 stupidelle in un dormitorio lercio, non lasciami continuare, sotto la sorveglianza di laide guardiane. Ecco la situazione, ecco l'alternativa. Non credi che, date le circostanze, Dolores Hayes farebbe meglio a tenersi stretto il suo vecchio? Mm-hmm. Ogni mattina, durante il nostro anno di viaggi, dovevo creare qualche nuova aspettativa, un punto speciale nello spazio e nel tempo, che li svegliasse il suo interesse, che la facesse sopravvivere fino all'ora di andare a letto. Altrimenti, privato di uno scopo che gli desse forma e sostanza, lo scheletro della sua giornata si afflosciava e rovinava a terra. La meta poteva essere qualsiasi cosa, un faro in Virginia, una caverna nell'Arkansas trasformata in caffè, una collezione di pistole e violini nell'Oklahoma, una replica della grotta di Lourdes in Louisiana, fotografie sbiadite della febbre dell'oro nel museo di una località turistica sulle montagne rocciose, qualsiasi cosa. Ma doveva essere lì, davanti a noi, come una stella fissa. Anche se al nostro arrivo Lolita avrebbe probabilmente affettato un conato di vomito. Mettendo in moto la geografia degli Stati Uniti, per ore e ore io mi industriavo per darle l'impressione di fare delle cose, di andare verso una destinazione definita, verso qualche insolito diletto. Non ho mai visto strade lisce e amabili come quelle che si irradiavano di fronte a noi attraverso la bizzarra trapunta di 48 stati. Consumavamo voracemente quelle lunghe autostrade in assorto silenzio. Scivolavamo sul fondo nero e lucente come una pista da ballo. Non solo non importava nulla dei paesaggi, ma si inalberava furiosamente. Se richiamavo la sua attenzione su questo o quell'incantevole particolare, io stesso imparai a discernerli solo dopo essere stato esposto per qualche tempo alla delicata bellezza che era sempre presente ai margini del nostro indegno viaggio. Di notte, alti camion, ingemmati di luci variopinte, simili a alberi di Natale spaventevoli e giganteschi, si profilavano nel buio e rombavano accanto alla piccola, tarda berlina. E di nuovo il giorno dopo, un cielo quasi spopolato si scioglieva sopra le nostre teste, cedendo il proprio azzurro al calore. E là berciava di aver sete e le sue guance si incavavano con vigore sopra la cannuccia, e la macchina era una fornace quando vi salivamo di nuovo, e la strada luccicava davanti a noi. Il mio avvocato mi ha consigliato di fornire un resoconto chiaro e spassionato del nostro itinerario, e penso di essere ormai giunto a un punto in cui non posso più sottrarmi a questa ingrata bisogna. Nel corso di quell'anno dissennato, dall'agosto del 1947 all'agosto del 1948, il nostro viaggio cominciò con una serie di ghirigori nel New England, per poi divagare verso sud, su e giù, a est e a ovest. Sprofondò quindi in Second Appell Dixieland. Evitò la Florida perché c'erano i Farlow, virò verso ovest, zigzagò attraverso la regione del Gran Turco e quella del Cotone, non precisissimo, temo, Clarence, ma non ho preso appunti di sorta e ho per riscontro solo una guida in tre volumi atrocemente mutilata, quasi un simbolo del mio passato dilaniato e lacero. Traversammo varie volte le montagne rocciose, vagolammo attraverso i deserti meridionali, dove trascorremmo l'inverno, raggiungemmo il Pacifico, Svoltammo a nord nella pallida lanugine lilla dei cespugli fioriti lungo strade boschive e raggiungemmo quasi il confine canadese. Procedemmo verso est fra terre fertili e terre aride, di nuovo in mezzo all'agricoltura su vasta scala, evitando, nonostante le stridule rimostranze della piccola Lo, la sua città natale in una regione ricca di gran turco, carbone e maiali. E tornammo infine all'ovile dell'est, dove il nostro slancio si spense nella cittadina universitaria di Bursley. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers creepers, where did you get those eyes? Gosh, oh, get up, how'd they get so lit up? Gosh, oh, get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, got to put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weavers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? Talk of every guy in town, and when they see you traveling right on down, all the local yokels reach for their bifocals. You've got a pair of baby blues, seem to be making headline news, but you better not bring them down. I gotta keep my temperature down. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me, I got to put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. They're a big surprise, gonna put you wise. Where did you get those eyes? Jeepers Creepers. Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.